osare, vietato fumare, vietato sognare, vietato pensare, vietato parlare, vietato tornare, vietato soffrire, vietato amare, vietato cercare di capire. Questa la chiamano la libertà per convincerti che va bene la società, il tuo disagio lo chiamano felicità, ed è un criminale che si ribellerà, ribellerà. Vietato essere perfetto, vietato andare contro il corretto, vietato lamentarsi, vietato ribellarsi, vietato le droghe per essere un vincente, vestiti informati per essere attraente, intrattenimento alla TV non farvi pensare, per vedere dolori al tuo mondo sta per scoppiare. Vietato tornerà, vietato soffrire, vietato amare, vietato cercare di capire. Le macchine ti vanno 200 all'ora, ti danno una fabbrica, una caserma, una scuola, e con la patria di conforto, il numero uno, ma se non sei di te, non sei nessuno, e puntate a essere perdente.